Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 31 gennaio e come ieri proseguiamo queste puntate. Proseguono le puntate dedicate all'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, perché i magistrati di Siena stanno ascoltando in procura il banchiere Ettore Gotti Tedeschi nell'ambito dell'inchiesta per l'acquisto di Antonveneta da parte di Monte dei Paschi di Siena. L'ex presidente dello IOR, che ricordo è la banca del Vaticano, è anche responsabile del Banco Santander in Italia. Perché? Perché Monte dei Paschi di Siena pagò all'istituto spagnolo Antonveneta 10 miliardi 138 milioni di euro, accollandosene praticamente tutti i debiti, pare oltre 6 miliardi. E intanto nel mirino dei magistrati impegnati nell'indagine c'è un reato, spunta l'ipotesi di un reato importante, cioè l'accusa di associazione per delinquere per i magistrati che si occuparono, anche i magistrati che si occuparono dell'acquisizione di Antonveneta e delle operazioni finanziarie successive. Vi chiediamo al 349-238-6666, esattamente come ieri, fin dove può arrivare questa inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena. Vi chiediamo ancora di chi sono le responsabilità, se sono del management di questa banca oppure anche della politica, e di chi in particolare. 349-238-6666. Allora, noi siamo collegati, ieri l'avevamo in studio ma oggi l'abbiamo inviata a Siena, ed era giusto, Raffaella Calandra. Dunque, in questo momento c'è ancora Ettore Gotti Tedeschi nell'interrogatorio davanti ai magistrati, è così? Sì Daniele, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Io sono qui al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Siena, dove ci sono gli uffici della Procura e dove ormai da oltre 3 ore Ettore Gotti Tedeschi sta appunto e viene ascoltato dai magistrati. Corridoio blindato, per cui in questo momento per i cronisti diciamo inaccessibile il corridoio della Procura dove questo interrogatorio è in corso. Appunto, come ricordavi, l'ex presidente dello IOR è anche l'uomo del Santander in Italia e quindi il referente, colui che potrebbe raccontare ai magistrati le fasi finali di quella delicata trattativa che portò MPS ad acquistare appunto Antonveneta da Santander per 10 miliardi di euro. Una banca, quella padovana, di cui i nostri ascoltatori probabilmente ricorderanno anche le prime vicende, quelle su cui si erano infranti anche i sogni di Giampiero Fiorani della BPL di Lodi all'epoca della stagione dei furbetti del quartierino. Una banca, dicevamo, che Santander aveva acquistato solo 30 giorni prima di rivenderla appunto ad MPS, ma per 6 miliardi in meno. Ebbene, in questa differenza di prezzo, in quello che successe in quella fase delle trattative, sono tutti elementi su cui i magistrati diciamo vogliono avere delle risposte da Gotti Tedeschi, che viene sentito come persona informata sui fatti, anche se quello che è diciamo l'amministratore delegato della Rothschild, ossia la società che fece da advisor per Santander nell'acquisto di Antonveneta, ha raccontato già che nell'acquisto, diciamo proprio nella fase finale dell'acquisto di Antonveneta, Gotti Tedeschi, dice Alessandro Daffina, non ebbe alcun ruolo. Quell'acquisto avvenne con una telefonata nel novembre del 2007. Comunque sono tante le zone diciamo d'ombra e le domande su cui i magistrati di Siena vorranno avere delle risposte appunto da Gotti Tedeschi, proprio perché l'inchiesta, come ricordavi, ha avuto una nuova svolta, accelerazione, si è arricchita oltre dei reati che erano stati già contestati, quello dell'aggiotaggio, delle false comunicazioni, della turbativa e della truffa, si ipotizza anche uno scenario da associazione a delinquere, quindi un salto di qualità. Daniele. Allora, arrivano già i primi sms al 349-238-6666, c'è un ascoltatore che ci ricorda che le banche hanno beneficiato di sponde politiche per perpetuare i loro interessi a discapito dei problemi dei correntisti, questo lo scrive Guido da Bergamo, un altro dà la colpa completamente al Partito Democratico, un altro come Saverio di Sesto San Giovanni ci dice che si domanda perché proprio ora, chi giova tutto questo, i soliti misteri, tutte le banche italiane hanno fatto e fanno gli stessi movimenti del Monte dei Paschi di Siena, sono nella stessa situazione, in un vaso di Pandora tutto da scoprire, dice un altro ascoltatore. Continuate, 349-238-6666. Io mentre scartabellavo ricordavo anche una importante direi di alcuni giorni fa, di alcuni mesi fa, esattamente del maggio dello scorso anno, alcuni mesi fa, era l'inchiesta di Report su Rai 3 che aveva svelato, il titolo era Il Monte dei Fiaschi, e aveva svelato il sistema di potere toscano che vedeva al centro questa banca, il Monte dei Paschi di Siena, il sistema dei partiti, si parlava del Partito Democratico e anche del PDL, gli enti locali, il comune, la provincia di Siena, la regione toscana, la curia di Siena e la massoneria. Questo è quello che emergeva da questo bel, che lo ricordo molto bene, servizio e reportage di Paolo Mondani. Ecco, lì in città qual è il clima? Cioè, hai provato a capire, a parlare anche con non solo con cittadini, ma diciamo in generale con esponenti delle istituzioni. Qual è il clima all'interno della città? Io credo che il clima l'abbia sintetizzato molto bene ieri il procuratore capo di Siena quando ha parlato di una situazione esplosiva, un'espressione molto forte che però rende bene sia della delicatezza dell'inchiesta che è in corso, perché riguarda il terzo gruppo più grande bancario italiano, sia anche delle ricadute che questo tipo di inchiesta ha e sta già avendo, a cominciare dalla stessa città. Il Monte dei Paschi di Siena e la fondazione, che è il primo azionista della banca, sono praticamente la città, l'attività economica, oltre ai legami che ci sono appunto nelle nomine appunto della fondazione, ma tutta l'attività economica, istituzionale, politica ruota intorno a Rocca Salimbeni, che è il centro appunto propulsivo della vita di Siena. Per questo un'inchiesta di questo tipo, che di cui non si conoscono ancora anche bene i contorni, anche bene questo ricordarlo, chiaramente fa paura, tant'è vero che nei primi giorni c'è stato quell'effetto psicologico un po' da panico di correntisti che andavano a chiedere informazioni anche del proprio conto, di quelli che cercavano anche di prelevare dai propri soldi, dal proprio conto, proprio nella paura anche degli scenari peggiori. Una situazione quindi estremamente delicata, che però anche la Procura di Siena oggi ha cercato in qualche modo di rassicurare, smentendo in alcune notizie di stampa che parlavano anche di imminenti sequestri conservativi nel monte. Così la procura, con una nota ufficiale, ha voluto smentire questo scenario e addirittura anche ha tracciato l'ipotesi di aprire un fascicolo per insider, proprio per la diffusione di queste notizie che chiaramente rimbalzano immediatamente sul mercato. E non dimentichiamo che negli ultimi giorni Monte dei Paschi ha continuato ad avere una serie di ribassi, quindi c'è molta paura a Siena, è inutile negarlo. Un altro ascoltatore, Carlo Autorino, dice che sarebbe importante approfondire e spiegare bene in modo comprensibile che né MPS né Monte dei Paschi di Siena né il sistema bancario sono a rischio, dice l'ascoltatore, sono terrorizzato dal panico che si sta diffondendo tra i risparmiatori. In molti danno la colpa al Partito Democratico, altri ricordano, per esempio, ricordano che bisognerebbe indagare anche sui controlli, anche su Banca d'Italia, anche se notizia di oggi riportata da Bloomberg, Banca d'Italia avrebbe avuto un ostacolo nelle sue ispezioni. È vero da quello che è uscito? Allora, sicuramente tra i reati che vengono contestati all'ex management di MPS c'è appunto proprio le false comunicazioni e quindi anche l'ostacolo agli organi di vigilanza, quindi vuol dire Banca Italia e Consob. Quindi sicuramente i magistrati di Siena stanno indagando per verificare quelle comunicazioni che la banca ha mandato agli organi di vigilanza, se rispondano al vero e se siano avvenute così come la legge prescrive. Un altro fronte invece è stato aperto ieri, ma in un'altra città, che è Trani, che invece mette proprio gli organi di vigilanza, ossia Banca Italia e Consob, sul banco degli imputati, perché sarà aperta un'inchiesta proprio per omessa vigilanza a partire da un esposto dell'associazione della di Consum, cioè vale a dire l'ipotesi è che loro, sia Banca Italia che Consob, non abbiano a dovere vigilato su quanto avveniva all'interno del Monte dei Paschi. Il presidente della Consob proprio qualche giorno fa ricordava che soltanto dopo aver ricevuto un esposto anonimo nell'agosto 2011 la Consob, quindi l'autorità che monitora appunto le piazze finanziarie, ha avuto notizia di irregolarità che potevano essere avvenute intorno a questi famosi derivati Alexandria Santorini. Prima, dice la Consob, noi non avevamo tracce di possibili anomalie neanche nella documentazione di Banca Italia, che pur aveva fatto delle ispezioni lunghe all'interno della Monte dei Paschi. Certo, grazie Raffaella Calanda, che è per Radio 24. Lo ricordo a Siena, vi ricordo Italia in Controluce, la potete trovare non solo sul nostro sito radio24.it, la pagina podcast eccetera, anche su Facebook, la pagina del gruppo, e anche su Twitter. La nostra mail è controluce@radio24.it. A domani.